Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non, cari gastronauti, eccoci oggi a parlare di un argomento che interessa molti, sono i ristoranti a chilometro zero. Bene, vorremmo andare a capire cosa sono, come funzionano, quale successo hanno, se ci sono delle critiche su questi ristoranti. Insomma, vogliamo capire un po' tutto di questa nuova formula che è nata, diciamo, in Veneto, se vogliamo, voluta, sponsorizzata dalla Coldiretti, ma anche con lo zampino della regione Veneta. Credo che il primo focolare così di questa realtà è nato proprio in questa regione, e ci sono alcuni personaggi che sono stati così tra i promotori, i fondatori di questa formula particolare, che è una formula di marketing o una formula, diciamo, che porta dei grandi benefici. Bene, questo lo andremo a scoprire anche con voi, cari radioascoltatori. Numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Buongiorno a Fabio Legnaro, titolare della trattoria Ballotta di Torreglia, in provincia di Padova. Legnaro, allora, ci racconti com'è nata questa idea, perché lei è stato uno dei fondatori. Siamo stati fra i primi noi dal Veneto, grazie a Coldiretti, a appoggiare questa, chiamiamola, filosofia di vita. Qui Davide, noi nella zona usiamo i prodotti locali, ma con questa spinta della Coldiretti siamo riusciti ad arrivare ai produttori e quindi anche al prodotto bello, finito, e fra l'altro costa anche un po' meno, di conseguenza viene a costare meno nel piatto anche al cliente che paga. Senti Fabio, ma non è che facendo, cioè diciamo aderendo e quindi essendo, come posso dire, leali a questa formula, si rischia di circoscrivere molto la possibilità della creatività in cucina e di fare sempre gli stessi piatti? No, guarda, perché per fortuna in Italia abbiamo le regioni che offrono abbastanza cose, perché usare solo il Parma come prosciutto qui a Padova, quando abbiamo quello di Montagnana buonissimo, dolce, che fa concorrenza al San Daniele e a tutti gli altri, quindi usiamoli tutti e due, ma facendo girare un camion un po' meno, quindi il chilometro zero fa anche inquinare meno e diamo la possibilità ai produttori nostri di fare qualche numero in più, insomma, quindi è anche un po'. E col pesce come facciamo? E col pesce come la mettiamo? Beh, guarda che siamo vicini a Venezia, e Padova ha uno sbocco sulla laguna di Venezia, quindi ci siamo. Allora facciamo chilometri 50. Chilometri 50, 55, sì. Va bene, rimani grazie. Con noi. Abbiamo con noi il responsabile della guida Michelin Italia, il temutissimo Fausto Arrighi. Buongiorno Fausto. Carissimo, buongiorno. Allora, tu cosa ne pensi di questa, diciamo, chilometro, ristoranti a chilometro zero? Marketing o dei benefici anche per il consumatore, per il cliente? Ma io penso che sia un po' l'uno e un po' l'altro, nel senso che lo si può fare in quei territori dove effettivamente esiste ancora un'agricoltura, dove esistono degli allevamenti di qualità, perché poi si va anche alla ricerca della qualità, specialmente in ristoranti, diciamo, di media e di alta gamma, ecco, e quindi diventa difficile spesso trovare effettivamente dei prodotti, e ci si affida alla grande distribuzione o ai mercati generali, ecco. Ecco, ma io credo che quando c'è un ristorante aderisce a questa formula ed è cosciente di quello che fa e di quello che comunica, cioè dal punto di vista anche della, ho detto prima, della creatività e quindi della possibilità di variare il suo menù, ci siano delle grosse restrizioni, quindi le guide sicuramente si trovano nel dare giudizi a locali che basano, diciamo, il tutto sulla materia prima. Sì, beh, effettivamente nella gastronomia e nella ristorazione è fondamentale la materia prima, ecco. C'è la selezione dei prodotti, c'è una creatività nei piatti che porta a volte a non avere nel territorio determinati elementi. Poi prendiamo ad esempio la carne o il pesce, ecco, difficilmente in determinate zone tu trovi questi prodotti di alta qualità, quindi ti affidi alla grande distribuzione o al macellaio particolare che ti dà una carne che non è spesso e volentieri prodotta nella certo. regione o nella provincia dove tu ti trovi, ecco. Io farei un passo indietro nella ristorazione, obbligherei quasi ai ristoranti anche di alto livello a proporre nel proprio menù piatti del territorio, perché avvicina di più la gente forse anche ai prodotti del territorio, quindi andare a selezionare qualcosa perché quello è il territorio. Ecco. Oggi nell'alta ristorazione troviamo una cucina non ben identificata, di qualità, piatti creativi, però c'è sempre meno territorio, quindi anche al cliente il fattore territorio non è una specifica, un qualcosa che qualifica poi il ristorante. Bene, ricordo il numero verde 800 24 00 24, ma voglio fare l'ultima così domanda a Righi, che poi ci lascia. Volevo chiederti, non voglio sapere il nome, ma nei tuoi giri che in preparazione per la guida 2010 ti è capitato di andare in qualche ristorante che aderisce a questa, diciamo, associazione, chiamiamolo così, chilometro zero? Guarda, sinceramente, proprio visiva questa cosa qui non ce l'hai. Assolutamente, ecco, probabilmente si è ancora un po' all'inizio, quindi c'è bisogno di visibilità, ecco, e poi di distribuzione di questa formula, di questo modo di fare su tutto il territorio nazionale. Passo la linea alla regia per sentire la viabilità. Ringrazio Fausto Righi e prego Fabio Legnaro di rimanere con noi. Il gastronauta. Bene, eccoci di nuovo a parlare di ristoranti a chilometro zero. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, e abbiamo già degli sms e abbiamo Francesco che ci segnala un ristorante a chilometro zero, dice lui, straordinario, un agriturismo a Campo Spinoso. Bene, grazie di questa segnalazione. Io abbiamo ancora con noi Fabio Legnaro, lo ripeto, titolare della trattoria Ballotta di Torreglia in provincia di Padova, uno dei fondatori di questo gruppo veneto che è stato tra i primi a muoversi appunto con la Coldiretti e anche con la regione Veneto. Bene, Legnaro, io so che voi comunque tra appartenenti a questo gruppo veneto fate anche dei contest regionali, ma di che cosa si tratta? Allora, è un concorso che abbiamo fatto noi sempre con Coldiretti, siamo già alla quarta edizione, dove invitiamo colleghi delle altre città del Veneto a proporre un loro piatto con una selezione di giornalisti gastronomici che seguono qui la zona, giornali e TV, e anche con una giuria popolare che è il pubblico, sono i clienti che assaggiano questi piatti, decretano il miglior piatto durante serate gastronomiche, e diamo una riconoscenza per questo lavoro fatto, insomma, con i prodotti. Chi è l'ultimo che ha vinto? L'ultimo che ha vinto è stato Rovigo, abbiamo fatto adesso il 20 di settembre la nostra sfida, diciamo, ha vinto Rovigo con un piatto normalissimo, guarda, era un'anitra di palude fatta al forno con delle verdure locali e arricchita dal tartufo polesano, quindi un piatto squisito, che un ragazzo giovane, anche 22-23 anni. Ma il ristorante è di Rovigo, la città di Rovigo, o si chiama Rovigo Ristorante? No, il ristorante è in provincia di Rovigo, è ad Adria e si chiama La Botta. Ho capito. E bene, quindi voi calcolate anche il prezzo di quando vediamo? Sì, facciamo sia un concorso in base anche al chilometraggio, cioè dal ristorante al posto dove si è approvvigionato, e quello ha un punteggio, quello lo fanno i soliti giornalisti, mentre la qualità e il gusto nel piatto lo decreta la giuria popolare. Ah, quindi chiamate anche la giuria popolare, quindi è una cosa importante. Sì. Bene, grazie Fabio Legnaro. Qua poi un'ultima domanda, quanti ristoranti siete? Siamo in Veneto, mi pare 26 che usano quantomeno al 70% i prodotti tipici, abbiamo un menù ogni giorno con questi piatti, seguiamo la tradizione e la stagionalità molto, e ci approvvigioniamo negli farm market che Coldiretti ci offre in ogni città. Ecco, rimani con noi perché abbiamo Daniela da Udine, una radioascoltatrice. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Io volevo chiedere una cosa, secondo me importante: come si fa a riconoscere un ristorante chilometro zero rispetto agli altri ristoranti e alle altre trattorie? Fabio, vuoi rispondere tu? Guarda, allora noi ad esempio nel nostro menù di tutti i giorni abbiamo una pagina con una proposta antipasto, primo, secondo, dessert, con piatto a chilometro zero, e poi nelle altre parti del menù mettiamo un asterisco vicino dove mettiamo pietanze di produzione tipica, nel caso mio padovana, quindi c'è questa maniera anche da parte di chi non segue proprio chilometro zero in pieno di segnalare il piatto fatto diciamo in casa, quindi si può vedere, beh, nella guida di Coldiretti ci consiglia i vari ristoranti che sono approdati a questa linea, oppure nei menu sarebbe bello che tutti scrivessero, come facciamo noi e qualche altro, questo asterisco vicino ad ogni portata, ad ogni piatto, riconoscendo il piatto di produzione tipica. Bene, grazie a Fabio. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Leggo alcuni sms. Il chilometro zero un valore aggiunto che deve stimolare la mente nella degustazione, come lei, la tipicità o la tradizione, e si gusta col cervello e non con la pancia. Bene, questo è il motto del gastronauta, grazie a chi l'ha scritto. Bene, la prima osteria chilometro zero è stata Osteria Vita Nuova di Padova, 20 coperti, un monopiatto con tutte le specialità. Bene, quindi abbiamo questa segnalazione, va benissimo. C'è chi dice che sono altri stati i primi, però io credo che ci saranno tanti ristoranti che lo hanno già fatto da anni senza dire chilometro zero, ma che hanno sempre usato prodotti del territorio o nel raggio di 55 chilometri, come ci diceva Fabio Legnaro. Bene, buongiorno ad Antonio Santini del Pescatore di Canneto sull'Oglio. Ciao Antonio. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Io credo che tu faccia da anni il chilometro zero senza magari mettere fuori chilometro zero, mi sbaglio? Beh, direi che lo spirito di ogni ristorante è quello di valorizzare il meglio che gli sta intorno. Poi è chiaro che bisogna attingere anche al meglio che non sta proprio dietro casa, perché ci sono dei prodotti che non possono essere i migliori in assoluto. Pensiamo ad esempio il tartufo. Se dovessimo pensare di mangiare il tartufo solo andando in Piemonte, una parte di turismo gastronomico, di persone che girano il mondo, non potrebbero trovarlo. Ciò però non vieta, e questo c'è stata un'iniziativa di Carlo Petrini, che ha proposto in giro per il mondo, ma ne abbiamo parlato con le Grand Tab du Monde, che sono i ristoranti più importanti del mondo, è stato quello di creare in ogni ristorante, quando è possibile, e lo è spesso, un orto di erbe aromatiche, di verdure. Questo sarebbe già un passo importante. Bene, mi sembra che in Italia sia stata fondata un po' di mesi fa un'associazione dei ristoratori che hanno il proprio orto. Sono già, mi sembra, 12 o 15, non ricordo il nome, ma anche un nome molto, molto particolare, quindi diciamo che si sta muovendo in questa direzione. Antonio, rimani con noi. Ora abbiamo anche un altro direttore di guida, Enzo Vizzari, della guida dell'Espresso. Buongiorno Enzo. E buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ecco, vorrei sapere, tu cosa ne pensi? Chilometro zero marketing oppure una realtà veramente importante? Molto più marketing oggi di quanto sia effettivamente nella realtà. Ovvero, io sottoscrivo al 100% quanto ha appena detto Antonio Santini, che è sempre un esempio di equilibrio e di saggezza, però non si può negare che in nome del chilometro zero oggi si promuovono realtà di ristorazione, agriturismi, ristoranti, trattorie che sinceramente proprio di chilometro zero hanno poco, nel senso che soprattutto manca in qualsiasi modo la possibilità per il cliente di verificare effettivamente l'origine dei prodotti che vengono presentati. Ma attenzione, io sottolineo che di per sé l'origine, l'identificazione dell'origine non è un grande valore, ovvero è chiaro che certi prodotti in certi luoghi sono meglio che in altri. Dopodiché però io resto sempre aderente e fissato rispetto al mio presupposto di fondo, che mi permetto anche di consigliare sempre ai lettori, ai clienti, come dire, generici dei ristoranti. Ecco, l'importante è che sia buono. Sinceramente, un prodotto locale scadente, a un prodotto locale scadente io preferisco sempre un prodotto molto buono, anche se viene, scusatemi la provocazione, da 3.000 chilometri. Ecco, quindi bisogna essere anche in questo molto laici e molto realisti, ovvero diffidare dagli slogan, diffidare quindi dai luoghi comuni, apprezzare il buono quando è buono, meglio se il buono è anche locale, ma non può essere deciso a priori e non deve essere una pregiudiziale. Ho capito, benissimo. Sentiamo, abbiamo con noi un radioascoltatore, Maurizio dalla provincia di Macerata. Buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno. Senta, relativamente ai ristoranti cosiddetti chilometro zero di cui state parlando, ho avuto nei primi mesi un paio di esperienze andando a mangiare in posti nell'entroterra della mia provincia. E ho notato, a prescindere dalla bontà del prodotto e dei menù e tutto quanto, una certa, speculazione, una certa predisposizione da parte dei proprietari a mantenere dei prezzi un po' altini. Mi è capitato anche di mangiare, menù abbastanza semplici e quasi imposti, anche perché si parla tanto di stagionalità, quindi di un menù abbastanza, ridotto nella scelta. E comunque sia un prezzo, intorno a 40 euro, che mi sembra un po' eccessivo visto considerato che il chilometro zero e il menù. Maurizio, scusi se la interrompo, scusi, dipende da cosa ha mangiato, cioè nel senso che se ha mangiato della verdura e basta è un conto, se ha mangiato carne, non lo so, una bistecca o d'altro, insomma, mi dica cosa ha mangiato. Perché io ho mangiato una bistecchina di agnello, non è che io. Va bene, a me non sono un tipo che mi interessa molto della quantità, ma vado cercando la qualità e mi sta bene, no? Però la bistecchina d'agnello con dei contorni, degustativi a base di gratinati, ma comunque sia una cucina abbastanza. Bene, lei mi sembra di capire il suo problema, dice sì, chilometro zero, però stiamo attenti anche al prezzo. Bene, ricordo numero verde 800 24 00 24, e volevo ritornare da Santini. Come vedi Antonio, cioè la gente punta molto sul prezzo, perché magari dice chilometro zero uguale prezzo, però cioè bisogna vedere anche qui cosa si mangia, com'è il ristorante, quindi credo che anche queste siano cose da mettere in considerazione. Non è detto che se uno compra le cose attorno a casa poi sicuramente il prezzo sia decisamente inferiore, perché ci sono dei costi generali molte volte che incidono. Tu cosa ne pensi? Ma io penso in assoluto che bisogna imparare a pagare i prodotti quello che valgono. Il fatto che siano sotto casa dovrebbe essere una garanzia di controllo da parte del consumatore, in questo caso il ristorante che acquista. Potrebbe rendere maggiormente possibile il controllo sulla qualità, sul tipo di produzione, sul tipo di coltivazione. Ciò che deve fare un ristorante, un grande ristorante, è quello di avere il meglio in assoluto. Il meglio in assoluto non vuol dire semplicemente perché è vicino è più buono. Il fatto che sia più vicino permette questi controlli, il rapporto con il produttore. È chiaro che se tutto intorno a dove noi abitiamo ci fossero orti e allevamenti, trasformeremmo tutto in un meraviglioso giardino e questo sarebbe l'ottimo, ma certamente bisogna che tutto quello che ci sta intorno sia di altissima qualità, altrimenti è chiaro che si va a comprare laddove c'è una qualità maggiore, e dobbiamo imparare sempre a pagare la qualità, perché chi produce al massimo livello è giusto che venga remunerato, altrimenti ci abituiamo sempre a voler noi essere pagati al massimo e non pagare chi produce. Il motivo per cui credo un certo tipo di produzione agroalimentare se ne è sparita, perché proprio paghiamo più l'acqua che il latte o cose di questo tipo. Bene, grazie Antonio Santini. Grazie. Enzo, rimani con noi, ora passo la linea alla regia, torniamo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di ristoranti a chilometro zero. Abbiamo parecchi sms, ma poi via via vi leggerò perché ce ne sono alcuni molto interessanti. Intanto sentiamo Alberto da Roma. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Io volevo dire una cosa. Sono d'accordo che appiattire troppo la cucina su soltanto i prodotti del territorio può essere riduttivo, però d'altro canto un'operazione di marketing come questa, che mi sembra sia vicina all'idea della cucina del territorio, ma riesce forse a comunicarla meglio, abbia l'importanza di diffondere di più questa cultura e contemporaneamente diffonderla anche a monte, cioè nei confronti dei produttori, che possono percepire più facilmente la possibilità di produrre per questo genere di clientela e quindi allontanarsi da una grande distribuzione che spesso appiattisce la qualità. Bene, Alberto, grazie, ma questa domanda ora, se l'ha ascoltata, abbiamo con noi un ospite che potrebbe rispondere lui stesso. Intanto ricordo il numero verde 800 24 00 24, è Giuseppe Politti, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori. Buongiorno Politti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. La CIA ha lanciato un'iniziativa che credo sia su questa linea del chilometro zero, che si chiama Conosci il tuo pasto. Però Politti, abbiamo sentito dal nostro radioascoltatore che faceva un'osservazione: serve ai produttori questa operazione di chilometro zero o di Conosci il tuo pasto? Ma serve, sapendo però che non è la misura, come dire, che risolve tutti i problemi. Serve perché, come dire, lega il pasto, quindi i sapori, al territorio. Serve perché dà certezza al consumatore di cosa mangia, quindi non la provenienza del cibo, l'azienda che l'ha prodotta, e quindi diciamo complessivamente è utile sia per i consumatori ma anche per gli agricoltori. Bene, sentiamo Lucia da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno Lucia. Buongiorno a lei. Io vorrei fortemente ritornare alla lingua italiana. Perché non chiamiamo il mercato del contadino il farm market? Che mia madre, che ha 80 anni, neanche sa cosa sia il farm market. Però è molto bello poter, cioè trovo anche molto più romantico il mercato del contadino. Guardi Lucia, non solo sponda una porta aperta, ma io questa cosa l'ho già ripetuta più volte. Non lo capisco neppure io, perché è veramente un'imitazione, una fotocopia di quello che avviene da 30 anni nella piazza a New York di Union Square, dove si chiamano Farmers Market e l'hanno inventata gli americani. Ma noi purtroppo, noi italiani, abbiamo sempre questo vizio di copiare e non avere mai delle idee molto originali, quindi dobbiamo ricorrere anche ai nomi stranieri. Bene, chiusa questa parentesi, voglio tornare a Enzo Vizzari. Vizzari, tu sei d'accordo che questa operazione, come ha detto un nostro radioascoltatore, è interessante forse più per i produttori che per i ristoratori? No, io credo che sia d'accordo, che sia interessante sia per i produttori sia per i ristoratori seri. Come dicevo nel mio intervento iniziale, tutto sommato alla fine meno interessante per il cliente normale, sottolineo e lo dico tra virgolette, cliente normale del ristorante, il quale, ribadisco, a meno che non abbia motivazioni particolari legate a determinate specialità di alcune aree, di alcuni territori, va a mangiare le cose buone. Se viceversa va a mangiare a tema, è giusto che cerchi i ristoranti nei luoghi dove certi prodotti notoriamente sono al meglio. Io però, tornando sul discorso del marketing e della furbizia per andare terra a terra, voglio raccontare un aneddoto che non ho mai avuto modo di scrivere neanche di raccontare. Mi è capitato a luglio di quest'anno di uscire dal casello dell'autostrada di Sant'Arcangelo di Romagna, zona che peraltro, Davide, tu conosci molto meglio di me. Ecco, a 300 metri dal casello dell'autostrada, di fronte a una bella casa di campagna tenuta ordinata, c'era un banchetto con una signora e la figlia che vendevano delle pesche, davvero molto molto belle. Io non ho ragione di dubitare che fossero pesche effettivamente prodotte da loro. Mi sono fermato, incuriosito, ho chiesto quanto costano queste pesche e mi sono sentito rispondere, ma proprio papale, 2 euro ciascuna. Sottolineo, 2 euro. Focale. Al che io ho detto, ma scusi, ho capito bene? E detto sì, ha capito bene, 2 euro l'una. Lei non sa che queste pesche sono prodotte qui da noi, qui c'è il campo, lei vede gli alberi, sono davvero speciali. Grazie. Ecco, allora mi sembra divertente questo, certo. È anche illuminante di come certe tendenze e di certe definizioni vengano poi cavalcate a sproposito, ecco. Bene, grazie Enzo della tua partecipazione. Ora sentiamo un altro radioascoltatore, Cesare da Verona. Buongiorno Cesare. Sì, buongiorno a voi. Sì, niente, io volevo solo precisare una piccola cosa. E a me sembra che non sia, che non faccia la stessa fine del discorso dell'agriturismo. Perché se non sbaglio l'agriturismo era stata una concezione da far, creare i prodotti locali per eventualmente usarli nella cucina dell'agriturismo, è quel discorso lì, che non diventa la stessa cosa, perché se dopo facciamo un menù a chilometro zero e ci mettiamo dentro, non so, un prodotto di una cucina cinese o qualcosa, non diventa più un discorso da chilometro zero come si faceva una volta, e mi ricordo dei ristoranti che avevano l'acquario, tiravano fuori il pesce e glielo cucinavano al momento. È solo diciamo quella la forma effettivamente. Bene. Del chilometro zero, o no? Bene, grazie. Politi, lascio la parola a lei. Vai. Innanzitutto sono d'accordo con quell'ascoltatrice che super market, chiamiamoli mercati contadini. Sì, certo. Mi trova d'accordissimo, insomma, perché insomma è inutile copiare dagli altri, abbiamo le nostre specificità, abbiamo la nostra lingua e quindi contadino, se vogliamo, è anche più bello e più immediato. Ecco, i furbi, ci sono i furbi, vanno combattuti e garantirsi insomma che siano realmente dei coltivatori diretti. Ecco, noi come organizzazioni, mi allaccio per un attimo anche al problema dell'agriturismo, pure noi siamo contrari per esempio a tante licenze che i comuni o le regioni danno con dei soggetti che nulla hanno a che fare con l'agricoltura. Ecco, la prevalenza deve essere il reddito e i prodotti provenienti dall'azienda agricola, non può essere diversamente, altrimenti rischiamo qualcosa di veramente positivo di dare un'immagine negativa che allontana il cittadino, allontana il consumatore. Quindi questo mi trova perfettamente d'accordo, e noi come organizzazione in un certo senso vogliamo tornare anche all'antica per ciò che riguarda le autorizzazioni per gli agriturismi. Bene, io la ringrazio, grazie a Politi del suo intervento, e appunto voglio ricordare questa vostra iniziativa che si chiama Conosci il tuo pasto. Sentiamo un altro radioascoltatore, Valerio da Vicenza. Buongiorno Valerio. Sì, buongiorno, è un piacere parlare con lei. Grazie. E allora, come dicevo, io lavoro in una paninoteca, collaboro con una paninoteca, dove tutti quanti i prodotti che vengono utilizzati, noi siamo in un piccolo comune al di fuori di Vicenza, Zanè si chiama appunto, e c'è questa paninoteca che si chiama Bamburger, perché appunto i tavoli sono tutti fatti in bambù, vabbè, forse è l'unica cosa che non c'entra quel chilometro zero, e tutta la carne che abbiamo vengono da fattorie vicine, e anche il formaggio che mettiamo dentro viene da Asiago. E mettiamo l'Asiago. Bene, insomma, allora un panino veramente a chilometro zero, ma poi diciamo più avanti avremo anche una gelateria a chilometro zero. Grazie Valerio di questa sua segnalazione. Ora abbiamo con noi un'altra responsabile di una guida importante, della guida del Gambero Rosso, Clara Barra. Buongiorno Clara. Buongiorno a tutti. Clara, tu cosa ne pensi? Credo che tu nell'ultimo anno che appunto hai così realizzato questa guida del Gambero Rosso che è appena uscita, hai girato molto l'Italia. Ti sei imbattuta in ristoranti chilometro zero che dichiarassero tale di essere? Sì, senz'altro c'è un rispetto. Nell'ultimo anno c'è un aumento, secondo me, di questi locali che presentano nei menu prodotti a chilometro zero dichiarati, con dichiarazione di fornitori, di produttori, sono molto trasparenti insomma in questa Ma tu lo vedi bene questo fenomeno, nel senso anche della creatività in cucina, della proposta e dell'offerta che fanno, oppure semplicemente un discorso che riguarda appunto la filiera e il prodotto? Perché questo secondo me è importante. Ma dunque, intanto nell'ultimo anno, come tutti sappiamo, c'è stata una forte problematica economica, no? Quindi grandi problemi di prezzi e di costi nei ristoranti, che chiaramente sono trovati a fare i conti con questa realtà. Indubbiamente il fatto del chilometro zero consente di abbattere questi costi, e ci sono stati molti episodi in cui naturalmente i cuochi si devono un pochino industriare per rendere poi questi prodotti, comunque con la loro ricerca, la loro creatività, la loro sperimentazione, cioè si può fare anche un grande piatto, insomma, con una verdura, con una carne vicina a casa, però ecco, certo, bisogna mettere in campo proprio doti di tecnologia, di creatività, al massimo delle potenzialità, insomma. Quindi tu dici, magari con minori così prodotti a disposizione, forse si può far girare di più la fantasia. Rimani con noi, rimanga anche con noi Davide Palluda, che è appena in linea, e Luigi, un radioascoltatore dalla provincia di Bari, perché ora devo passare la linea alla regia. Torneremo fra poco, rimanete con noi. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, a parlare di chilometro zero, di ristoranti, di prodotti, di farmers market, che la signora Lucia è d'accordo con me, non si devono chiamare così, ma mercati dei contadini, usiamo l'italiano. Ma io volevo leggere un sms, ne ho tanti a favore, a sfavore, con grosse critiche, ma uno è importante. Dice: il prezzo è importante, però io credo che i produttori agricoli costino troppo poco, i prodotti agricoli, scusate, costino troppo poco. Avete mai raccolto un chilo di amarene? Ecco, questo, altrimenti i piccoli spariscono. Dice giustamente un radioascoltatore, io sono d'accordo con lui anche a proposito del latte, ma magari ci torneremo sopra nelle prossime settimane su questi argomenti. Sentiamo Luigi dalla provincia di Bari, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Mi dica. Parli. È caduta la linea. Sentiamo Sergio dalla provincia di Rieti, ripescate Luigi magari. Sergio dalla provincia di Rieti, buongiorno Sergio. Buongiorno. Mi dica. Niente, io sono un piccolo imprenditore che faccio prodotti, diciamo, tipici della mia zona, Bassa Sabina, ma sono costretto ad andare a venderli a Roma perché purtroppo qui zone di forni industriali e compagnia nuova, faccio del pane, dei dolci. E vado a fare dei piccoli mercati a Roma rionali, sto con un'associazione un po' particolare, ma non voglio fare il nome per non fare pubblicità, e niente, però noi abbiamo studiato nel giro di 5 anni questo progetto del mercato contadino, che no quello che è uscito fuori adesso da Coldiretti, dove a Roma ogni sabato e domenica c'è un mercato della Coldiretti, e dove tutti questi espositori sono sempre gli stessi con gli stessi prodotti, non so quanti ne avranno per vendere in tutti i mercati ogni settimana, cioè ogni mese, e il discorso comincia a essere un po' retorico. Bene, grazie Sergio, abbiamo capito, ho anche degli sms in questa direzione. Bene, abbiamo con noi Davide Palluda dell'Enoteca di Vignale. Scusa Palluda, vedo che ho un'altra comunicazione. No, va bene, Davide, buongiorno. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti. Dunque Davide, io ho detto prima, ho sbagliato, è l'Enoteca di Canale, scusami. Sì, ma è sempre un'Enoteca. No, ma stavo guardando altre telefonate che stavano arrivando. Volevo chiederti, io ho letto una tua intervista tempo fa, che eri abbastanza critico sullo slogan del chilometro zero. Siccome tu fai cucina del territorio, mi interessa molto sapere cosa ne pensi. Ma io lo sono ancora adesso critico, nel senso che credo, come tanti cuochi che fanno cucina del territorio, sono stato colpito, affascinato da subito dallo slogan dei chilometri zero. Poi ci ho riflettuto un po', mi sono confrontato, ho approfondito e ho capito che forse è più uno slogan che una cosa reale, che una cosa vera. Insomma, la cucina si fa non soltanto con i chilometri zero, la cucina si fa con l'innovazione, con le contaminazioni e con altre cose. Chi fa cucina del territorio come me, l'uso dei prodotti chilometri zero l'ha sempre fatto, senza rimarcarlo, ecco. Bene, rimani con noi, sentiamo Luigi, l'abbiamo recuperato, il nostro radioascoltatore della provincia di Bari. Mi dica Luigi. Grazie Paolini. Niente, mi stavo riferendo a una stortura del chilometro zero. Ecco, mi riferivo all'olio d'oliva, sì, ad esempio. Sì. Che senso ha il chilometro zero sull'olio d'oliva? Non voglio fare nomi, ma di un olio, che ne so, del lago, di un lago vicino a un lago magari, dove la produzione è minima, che senso ha il chilometro zero su un prodotto che magari al 90% quello viene ad acquistare in Puglia. Cioè, non riesco a... Mi sono spiegato? Sì, cosa voglio dire? Ci siamo spiegati, però ecco, non si può essere così rigidi. È evidente che il pesce in un ristorante di montagna è difficile, sicuramente bisogna andarlo a recuperare. Lei il discorso dell'olio, vedo che chiama dalla provincia di Bari, quindi sicuramente ha una sua polemica verso il resto dell'Italia, perché viene ad attingere nella sua regione e poi magari spaccia l'olio per altre denominazioni e altre aree. Però credo che un minimo di elasticità ci debba essere. Bene, grazie Luigi. Io torno a Clara Barra, perché se ha sentito l'intervento di Davide Palluda volevo un suo commento. Ma infatti, certo, io sono pienamente d'accordo con Davide, che ha sempre fatto un discorso di cucina di territorio, però con delle giuste contaminazioni. Infatti lui comunque mantiene in menù sempre questo, anche questo duplice filone di cucina strettamente legata al territorio, con dei piatti che magari partono dal territorio e divagano piacevolmente in altre direzioni, con contaminazioni sempre molto riuscite, sempre molto equilibrate, di ricerca, cioè ci vuole, come giustamente anche hai detto tu Davide a proposito delle altre situazioni, elasticità. Cioè è evidente, insomma, che molti cuochi seri hanno sempre fatto chilometro zero laddove significava cercare di attingere nel meglio della produzione del loro territorio, ma non bisogna neanche appunto demonizzare chi fa uso di altri ingredienti. Certo. Ci vuole, insomma, un po' di elasticità, un po' di buonsenso, un po' come in tutte le cose. Insomma, bene. È evidente che dove il chilometro zero serve per riuscire a tenere i costi contenuti e a poter dare al cliente appunto un'offerta magari più variegata, che di vari prezzi, ben venga, ma insomma non è detto che se si utilizzano altri ingredienti non sia ugualmente una cucina di alto livello. Bene, grazie Clara. Torno a Davide Palluda. Davide, tu pensi che il discorso appunto del chilometro zero, anche con, diciamo, le osservazioni che abbiamo fatto, possa portare a un maggior consapevolezza della ristorazione dei prodotti e dei prodotti agricoli in particolare? Ma certamente sì, questo è fuori dubbio. Io però ti chiedo un'altra cosa: come si può far coincidere il chilometro zero con la voglia di internazionalità che abbiamo noi per i nostri prodotti? Io parlo di noi piemontesi, esportiamo il Barolo in tutto il mondo, il tartufo è esportato in tutto il mondo ed è il motivo di che Piemonte è così conosciuto, e farlo coincidere con uno slogan di chilometro zero non è facilissimo. Certo, certo. Se tutti alzano le barriere, voglio dire, noi... Il protezionismo, tu dici, giustamente, che è strisciante. Il protezionismo esagerato e sbagliato. Guarda, io sono fortemente convinto che il concetto di tradizione di territorio e di quello che è locale sia fantastico, però rimaniamo sempre con l'idea chiara che la tradizione è un'innovazione ben riuscita. Bene. Perché se no non ne usciamo più. Bene, uno slogan fantastico questo, grazie. Grazie a Davide. Sentiamo Fabrizio da provincia di Prato, 30 secondi Fabrizio. Sì, buonasera, buongiorno, volevo parlare di un progetto che è un po' un superamento del solo discorso gastronomico del chilometro zero, ma di una creazione magari di una locanda o delle locande di territorio, dove soltanto sia il discorso alimentare, ma anche un discorso, per esempio, di expo di artigianato, dove tutte le camere possono essere fatte da artigiani del luogo. Bene Fabrizio, anche... abbiamo capito il suo concetto, ma ho pochissimo tempo, perché voglio presentare Corrado Sanelli della gelateria Sanelli di Salso Maggiore Terme, che è una gelateria a chilometro zero, vero Corrado? Sì, verissimo, verissimo, perché è nata così la cosa, che a me piace sapere esattamente come è fatto il mio gelato, cosa c'è nel mio gelato. Io faccio il gelato per i miei bambini, ho sempre detto, quindi ho la fortuna di abitare, la fortuna di avere una piccola realtà e di abitare anche in un paese piccolo, per cui ho un pezzettino di terra nel quale mi coltivo alcun tipo di frutta, ma da anni, circa da 15 o 20 anni ormai, e di mio ho le amarene, le albicocche, i fichi, le prugne, le mele cotogne e le galline, immagino anche le galline. Non vengono mai trattate, quindi oltre al chilometro zero c'è anche la sicurezza del prodotto. Bene. Per esempio, non mi fermo soltanto a questi miei prodotti che non sono tanti, però vado a prendere le zucche in un podere che conosco, dove mi danno le cose veramente non trattate, faccio il gelato di viole che vado a raccogliere in campagna, il gelato di ortiche, questo suggerito da Libereso Guglielmi, che ho conosciuto l'anno scorso. Grazie Corrado, purtroppo dobbiamo chiudere la trasmissione insieme perché il tempo è scaduto, però abbiamo capito che tutte le tue materie prime arrivano da coltivazione a chilometro zero, addirittura sono familiari. Bene, abbiamo chiuso questa trasmissione, abbiamo scoperto che non solo esistono i ristoranti chilometro zero, ma le paninoteche e addirittura in fondo anche le gelaterie. Buon weekend a tutti.